Radio 24. Libera la voglia di fare. La bufala in tavola di Nicoletta Carbone. Ma buongiorno, buona domenica, bentornati alla bufala in tavola. È arrivato il nostro momento, so che vi state preparando a sedervi proprio a tavola con me e con i miei ospiti, ma aspettate, prima di sedervi vi faccio fare un saltino indietro. Sveglia e caffè, barba e bidè, presto che perdo il tram. Per arrivare a timbrare il cartellino d'entrata alle 8:30 precise, Fantozzi, 16 anni fa, cominciò col mettere la sveglia alle 6:15. Oggi, a forza di esperimenti... Ritorniamo, cominciamo dalla sveglia, che tra l'altro si deve abituare all'ora solare. Nella notte, fra sabato e domenica, abbiamo infatti spostato le lancette dei nostri orologi un'ora indietro. Voi l'avete fatto proprio al momento giusto, siete andati a dormire, avete giocato d'anticipo. Allora, in pratica, comunque, noi abbiamo guadagnato l'ora che avevamo perso per questa primavera. I conti tornano, forse tornano anche a me, vi faccio sempre un po' fatica, ma... indipendentemente dall'ora, come vi siete svegliati con la nuova ora, con questo cambio? Ve ne siete accorti o invece è stato un risveglio come tutti gli altri? Allora scrivetemi alla bufala in tavola @radio24.it e soprattutto fatemi un regalo, perché verrete a pranzo con me, facciamo una sorta di portateco, datemi la vostra ricetta per affrontare un buon risveglio in piena forma. Parlo di forma fisica, di energia mentale, anche di umore, di buon umore. E ditemi che cosa avete mangiato a colazione. Forse le due cose, un buon risveglio inizia proprio quando noi ci sediamo a tavola, iniziamo la giornata con questo mini pasto così importante. L'avete fatto? Avete fatto un mini pasto? Vi siete invece bevuti il caffè al volo? Magari siete andati al bar, avete sbirciato il giornale dal vicino sgrufolandovi una brioche perché è domenica, si sa? Oppure vi siete un po' attardati con il vostro compagno, con i vostri figli, magari c'è anche il vostro gatto di casa o il vostro cagnolone, come succede a me, e vi siete preparati una colazione con i fiocchi, proprio un piccolo mini pasto, direi neanche tanto piccolo e neanche tanto mini, e chiedo conferma al mio ospite della domenica che faccia accomodare naturalmente a capotavola della tavola, della bufala in tavola. Mamma mia, come ho fatto a non inciamparmi. Buongiorno al dottor Attilio Speciani, allergologo e immunologo clinico a Milano, grande amico della nostra trasmissione. Grande davvero, sì. Sì, è vero, è vero. Benvenuto, bello essere buona qua, domenica. Capotavola, sto bene. Si sente a suo agio, vero? Va benissimo, ecco, ha tutta la situazione sotto controllo. Apparecchiato bene, vedo apparecchiato bene. Intanto possiamo dire agli amici che possono portare degli altri amici, che c'è posto, portatevi la vostra sediolina e restate con noi. Intanto potete nel frattempo scriverci, raccontarci di voi, fare anche delle richieste. Dottor Speciani, com'è iniziato la giornata? Sapeva che veniva qua, quindi... con una marcia in più, ma... Dunque, intanto è indispensabile pensare che il timing della prima colazione, cioè il momento in cui facciamo la prima colazione, regolarizza l'orologio biologico. Quindi, anche adesso che stiamo parlando proprio di questo cambiamento indotto dall'ora legale, in realtà il valore della prima colazione è quello di fare, come dire, rimettere in linea le lancette. Quindi riallineare le lancette nel modo corretto. Allora ecco che il momento del risveglio, che oggi sarà un pochettino variato, poi più o meno, devo dire, per chi ormai è abituato a viaggiare, un'ora di cambio non è così drammatica. Siamo entrati in una dimensione... No, ma ci piace, dottor Speciani, avere qualche pretesto per giustificare... Per farci fare qualche coccola. Bravo. Va bene, perfetto. Allora questa è una coccola importante. Stamattina risveglio, io devo dire, ho iniziato stamattina con dell'uva buona, fresca. era, e quindi con un po' di sostanze crude e vive fondamentalmente, che sono sempre bene all'inizio, e poi ho fatto il mio pasto, come giustamente diceva prima Nicoletta, il pasto è quello che deve essere comunque esistente, quindi mi sono creato ho preso del salmone che avevo e un altro tipo di pesce che erano già preparati, l'ho riscaldato di nuovo e ho usato una maionese buonissima che è fatta senza aceto apposta perché ho una reattività sui lieviti, e quindi ho mangiato questo a fianco, perché insieme a proteine che devono essere cospicue, presenti, anche perché noi siamo fatti di proteine, quindi dobbiamo mangiarli, e un po' di frutta, ho messo di fianco del riso pilaf che avevo preparato 2 giorni prima, buonissimo, poi lo faccio, è una delle cose che faccio ancora, che ancora mia moglie mi lascia fare a casa, e quindi buono, integrale, biologico, per cui ricco di fibra, e quindi ne ho mangiato un poco che ha fatto perfettamente da contorno, ricreando questo specie di piccolo pasto che in realtà non deve essere neanche piccolo, però in cui c'è dentro carboidrato, c'è dentro proteina e c'è dentro della frutta e della verdura. Oggi potrei, se fosse necessario, è perché adesso tanto abbiamo spostato di un'ora, quindi la fame verrà fra poco, però potrei anche resistere per 8-10 ore perché ho in mano, come dire, dentro di me tutta l'energia per funzionare in modo adeguato. Allora, abbiamo intanto capito i gusti del dottor Speciani, perché fa delle colazioni salate. Certo. Ma abbiamo capito anche un'altra indicazione, un'altra notizia molto importante, è mettere le proteine a partire dal primo pasto della giornata. Assolutamente sì. È un dato che non è solo mio, ovviamente, perché se così fosse sarebbe, come dire, sottoposto a qualsiasi tipo di critica. Oggi c'è gente che si inventa di tutto e di più. Diciamo che c'è una forte corrispondenza con quello che dice, pubblicato ancora dal 2014 sull'American Journal of Nutrition, in cui posto che una persona, mettiamo una persona come me, di 90 kg deve mangiare 90 grammi di proteine, una donna di 60 kg deve mangiare 60 grammi di proteine circa, devono essere 20 al mattino, 20 a pranzo e 20 a cena. Per carità, siamo un po' flessibili, 16, 23, 21, cioè ci muoviamo, diamo i numeri. Ma diamo i numeri tranquillamente. Devono esserci però in qualsiasi momento della giornata, altrimenti il corpo sente una mancanza. Allora, questo vale anche per chi non prende proteine animali e quindi magari è vegetariano o vegano, per chi non ama la colazione salata del dottor Speciani ma vuole avere una colazione un pochino dolce, e poi non vale solo a colazione ma anche a pranzo e a cena. Ma a proposito di numeri, di ore legali, di proteine, di cui parleremo tra poco, perché ci sono quelle di origine animale, ci sono quelle di origine vegetale, il dottor Speciani ci aiuterà a combinarle, mescolarle, soprattutto tradurremo i grammi in esempi pratici. Ci facciamo una pausa, andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. State correndo da me? Calma, io resto qua fino all'1 insieme al dottor Speciani. Vi aspettiamo. La bufala in tavola. Questa cucina egiziana non mi sfagiola. Boh, l'appetito viene mangiando. Il convito di Asterix! Quando l'appetito c'è, io mi sento come un re. Avete appetito? Accomodatevi alla bufala in tavola. In realtà non abbiamo ancora mangiato niente, stiamo solo parlando di quello che abbiamo mangiato a colazione. Se a colazione abbiamo consumato questo pasto così importante della giornata, quello che dice anche al nostro metabolismo, dottor Speciani, forza dai, è l'ora di lavorare, è corretto? Ma non solo dice forza dai, cioè, e lavorare, è che glielo dice nel momento giusto. Perché il tema cardinale è sempre come con le persone, che tu dici ad una persona fai questo, fai quello, e quell'altro ovviamente guarda dall'altra parte. Se glielo dici in un momento delicato, giusto, quella fa tacchete. E questo allora è il punto sarà focale. Il momento giusto per parlarvi? Ditemelo voi, scrivetemelo a la bufala in tavola, @radio24.it. Perché ve lo dico? Perché chi manderà la sua colazione di oggi, di domenica, perché quella è un pochino più, no, più ricca, quindi vogliamo agevolarvi. Oppure la ricetta del buon risveglio, oppure... E che io mi auguro che sia non la colazione solo della domenica, ma anche degli altri giorni, perché c'è una lotta per cercare di far mangiare. Questo è vero, però noi intanto vogliamo agevolarvi, perché la domenica uno può dire negli altri giorni vado di corsa, eccetera, ma poi lei ci darà qualche indicazione anche per chi va a sprint. Allora voi scriveteci questa mail, noi poi vi risponderemo e vi metteremo il link dove potete scaricare e controllare il peso attivando il metabolismo. Per chi ci ha ascoltato anche nel corso delle passate edizioni sa che questo mini libro, questo opuscolo del dottor Speciani è stato molto richiesto, ha avuto un grandissimo successo anche tra gli ascoltatori di Radio 24, perché dà delle indicazioni molto semplici, dirette, soprattutto supportate scientificamente per dare una sveglia al nostro metabolismo. Esatto, perfetto. Basta. Bravissima. Allora, bravissima. Però lei mi ha lasciato con le proteine. Io allora adesso pensavo quanti chili peso, quante ne devo mangiare. Ho capito che bisogna distribuire nei tre pasti. Esatto. Ecco, però qua siamo anche a smascherare le bufale o a fare informazione, mi piace di più, ma si dice che noi mangiamo troppe proteine. Ah, questa è una delle convinzioni mantenute in questo periodo a livello anche stampa, tendenzialmente, salvo che in trasmissioni assolutamente perfette come questa. Mamma mia, ma come adoro gli uomini bugiardi, voi non sapete quanto. Per cui c'è questa, più o meno quando in tutte le conferenze, in tutte le comunicazioni, quando dico, o con i miei pazienti, quando dico quante proteine mangia? No, ma io cerco di ridurle. Dico, perché cerca di ridurle? Perché ne mangiamo troppe? Tutti dicono che se ne mangiano troppe. In realtà siamo ammalati di patologie che sono legate ad un eccesso di carboidrati. È vero, per carità, c'è anche qualcuno che mangia, che si sveglia al mattino iniziando a infilzarsi würstel nelle orecchie, capito? Sì, cioè, che abbiamo... anche non è no, neanche non è bello, bello da vedere. In pigiama con il würstel mi sembra orribile. Però sono veramente una minoranza di persone. Io vorrei fare un esempio classico della alimentazione della persona che un po' si tiene. Allora, quando dici che cosa ha mangiato quest'oggi? E la risposta è, intanto partiamo da quante se ne devono mangiare, credo che sia l'elemento fondamentale. Che lo dica io, che lo dica chiunque altro, che lo dica Walter Longo, che passa ad esempio per essere una delle persone... L'ho avuto adesso ospite, certo, con il suo nuovo libro. L'ho citato apposta perché... Allora lui, lei mi guarda. Certo che la guardo, Nicoletta, mancherebbe altro. Bravo. E quindi anche lui è obbligato a dire dei dati scientifici che gli esseri umani hanno bisogno, come minimo, che è un dato pronunciato dall'OMS, circa 0,83-0,85 grammi per chilo di peso. Vuol dire che io, che ne peso 90, occhio e croce, devo mangiare circa 90 grammi di proteine in una giornata. Chi ne pesa 60, circa 60. Facile da fare, come dire, l'assonanza. Sì, allora, però trasformarlo in piatti io ho difficoltà. Adesso lo facciamo. Partiamo da un esempio, così stimoliamo i pigri che sono ancora lì, che dicono, speriamo che dicano qualcosa di interessante subito, no? Allora, le persone che mi arrivano in studio e mi dicono, bene, cosa ho mangiato stamattina? No, vorrei tenermi indietro, quindi ho mangiato una tazzina di latte oppure un caffè con due fette biscottate e un velo di marmellata, no? Perché bisogna tenerti indietro. Proteine contenute nel tutto circa 2 grammi. E poi a pranzo una bella insalatona, ma con dentro, non so, prosciutto, formaggi, cose. Fa no, perché poi ingrassano. E allora, insalatona con dentro verdure di qualche tipo, contenuto proteico circa 2-3 grammi e siamo già a 2 e a 5. Uno che va molto bene, ci ha messo dentro qualche pezzettino di tonno, raggiungiamo circa i 10 grammi. A sera però finalmente mi faccio la bistecca di pesce o la bistecca, cioè circa 18-20 grammi di proteine. Il resto è un po' di pane, è un po' di insalata, un po' di verdure. Totale della giornata circa 30 grammi di proteine, cioè la metà di quello che l'OMS chiede ad una persona che ha i minimi bisogni, perché una donna in gravidanza, un adolescente, eccetera, si porta anche fino a 1,5 grammi per chilo di peso. Questa è la realtà di persone che quindi viaggiano con una fame sempre presente, che mangerebbero le gambe del tavolo e che cercano di limitarsi. Che non sono proteiche, non tra sono, l'altro. No, proprio no. E quindi vedete che anche la gestione delle quantità, mi sono portato qui apposta un pallottoliere, e viene bene, lo vede, e quindi ce la caviamo. Quindi traducendo i grammi in esempi, perché noi sappiamo che le proteine sono macronutrienti fondamentali che ci servono per far funzionare bene il nostro organismo. Bisogna scegliere quelle di buona qualità e sceglierne anche, come lei sottolineava, nella quantità giusta. Proteine, fonti di origine animale o vegetali, ma di questo parleremo, ma in piattoni, come si dice, in porzioni. Allora, iniziamo a dare dei numeri, cioè, continuiamo a dare i numeri. Allora, due uova sono circa 12 grammi di proteine. Un pezzo di un etto di carne o di pesce sono circa, viaggiano tra i 18 e i 22 grammi a seconda del tipo di pesce, a seconda degli scarti che ci sono. Questi sono già numeri che vanno tenuti abbastanza presenti. Un formaggio fresco contiene 5-6 grammi per 100 grammi di formaggio. Cioè, quando le persone dicono ho mangiato una fetta di pesce spada piuttosto che di altro, eccetera, in realtà pensano che quelli siano 100 o 120 grammi di proteine. No, le proteine dentro sono solo il 20% all'incirca. Ci sono degli elementi estremamente positivi, tipo semi oleosi, eccetera, che contengono anche di più. I formaggi molto stagionati ne contengono anche in quantità elevata, ad esempio classicamente grana ne contiene anche 28-30 grammi di proteine per 100 grammi di formaggio. Quindi questi sono un po' gli elementi e tra poco li mettiamo in pratica immaginandoci dei piatti in modo che le persone abbiano un'idea rispetto al loro peso, alla loro necessità, di quante cose effettivamente abbiano bisogno di mangiare. Parleremo naturalmente di proteine animali, ci sono persone che per ragioni etiche decidono di non consumare e noi daremo anche delle indicazioni alle persone che seguono delle diete vegetariane o vegane, perché le proteine sono importanti e ci sono altre fonti. Le possiamo abbinare ad esempio il classico legume con i cereali. Ah, mi piace. Qui però dopo ecco. Arriverò a spiegare perché il legume ha un senso solo parziale. Parziale, sarà una mezza verità, una mezza leggenda, una bufalina. Perché alcune sono, dicevo, anche le bufale vanno a peso. Noi abbiamo le bufaline, quelle piccole, sono quelle piccole imprecisioni, quelle leggende metropolitane a cui ci piace credere che non producono alcun effetto negativo, e altre invece che sono più sostanziose, quindi possono danneggiarci. Allora, io però farei una bella parentesi sulle proteine animali. Perché? Perché vogliamo vederci un po' chiaro a proposito di credenze. Spesso le convinzioni che abbiamo riguardo alle proteine animali, alla carne, ecco, chiamiamo, perché uno ci gira intorno spesso, ma poi parliamo di carne, si passano di bocca in bocca, ma non tengono magari conto della legislazione, di che cosa è cambiato nel frattempo. Allora noi volevamo vederci chiaro, lo vogliamo fare sempre, e soprattutto diventare, come si dice, dei consumatori informati e consapevoli. Le piace, dottor Speciani? Mi piace. Allora io ho invitato la dottoressa Maria Caramelli, direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Allora, noi apriamo questo sportello e, dottoressa Caramelli, lei ci deve dire tutta la verità, nient'altro che la verità, e smascherare eventualmente, non parlerei di bufale, ma di mettere chiarezza su alcune convinzioni, alcuni modi che noi abbiamo di pensare riguardo alla carne. Ad esempio, a volte noi sentiamo dire che la carne, e in particolare alcuni tipi di carne, contengono ormoni. Noi prima di tutto dobbiamo sapere perché sono stati usati gli ormoni, no? Quindi in passato, nell'allevamento soprattutto dei grossi animali, c'è stato in effetti un utilizzo che peraltro in certi versi persiste anche negli Stati Uniti ancora, ma adesso in Europa da decenni non si fa più, gli ormoni un po' come per gli atleti dopati, ecco, per aumentare il volume della carne e quindi averne un vantaggio economico. Però sono 40 anni quasi che in Europa c'è la tolleranza zero sull'uso degli ormoni nell'allevamento degli animali. Quella che è spesso associata all'uso di ormoni, così nell'immaginario, è spesso la carne di pollo, che in realtà per il pollo proprio il gioco non vale la candela, perché non conviene, non c'è un vantaggio non c'è un vantaggio economico, oltretutto legato anche alla vita breve dell'animale. Per utilizzare sì, gli ormoni proprio in questo tipo di allevamento. Dottoressa Caramelli, la fermo qui, ma ci risentiamo subito dopo una piccola pausa. Ritorniamo subito dopo insieme, naturalmente anche con il mio invitato d'onore, il dottor Speciani, che è qui a Capotavola. Non è che lei ha iniziato a mangiare? No, non ancora aspetto. Aspetti lì, anche voi, se volete mangiare, iniziare a mangiare qualche cosa, ma soprattutto restate con noi tra poco insieme alla dottoressa Caramelli. Da quando ci svegliamo a quando andiamo a letto siamo bombardati da informazioni, internet, i social, la TV, le chat, senza contare i vecchi bar e il passaparola. Per fortuna ci siamo noi, siamo qua apposta a metà giornata per rimettere ordine nelle notizie e per raccontarvi, col Giro d'Italia, piccole e grandi storie dal nostro paese. Sono Simone Spezia e vi aspetto tutti i giorni alle 13 con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. La bufala in tavola. Alla nostra tavola si è accomodata anche la dottoressa Maria Caramelli, direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Dottoressa Caramelli, benvenuta e bentornata. L'abbiamo invitata per il piacere di restare con lei, perché questo è il primo Movens, ma anche perché alla bufala in tavola vorremmo fare chiarezza su alcuni modi di dire, anche delle convinzioni che a volte sono un po' datate. Siamo partiti dagli ormoni nella carne e lei ci ha ben sottolineato che l'Unione Europea da 20 anni la tolleranza verso l'uso di ormoni è zero, quindi però queste sostanze sono permesse in America, ho capito bene, dottoressa Caramelli? Alcune sostanze ormonali sono permesse, sì, negli Stati Uniti, questo è l'oggetto anche di discussione sui trattati internazionali. Certo, no? Ma le carni trattate, le carni americane possono essere commercializzate da noi pur se hanno gli ormoni? No. No. Oh, meno male, ok. Comunque no. L'etichetta è sempre, cerchiamo di capire sempre da dove arriva quello che mettiamo sulla tavola. Senta, dottoressa Caramelli, noi quando parliamo di ormoni, etichettiamo ormoni magari delle sostanze che ormoni non sono, o definiamo non ormoni delle sostanze invece che lo sono? Insomma, quando si parla di anabolizzanti, una sorta di doping animale, sono in realtà, parliamo sempre comunque di ormoni, e queste sostanze nel caso sono permesse, sono vietate, sono state utilizzate? Sono anche se delle sostanze chimiche che permettevano, perché non sono più permesse assolutamente da una quarantina d'anni, permettevano un aumento del volume della massa muscolare, quindi una resa economica migliore, e sono stati abbandonati completamente. Certo, poi si può trovare il caso di illegalità, purtroppo nel nostro paese come ovunque, però anche i controlli del Ministero che facciamo noi come istituti zooprofilattici ci dicono che questa è un'evenienza assolutamente eccezionale, in realtà non vengono più utilizzati da molto tempo, di questo siamo certi. Senta, dottoressa Caramelli, anche lei cucinerà, ma quando ad esempio si mette una fettina, anche il dottor Speciani cucina, in padella e si nota che si restringe, butta l'acqua, ecco, queste come possiamo definirle, reazioni, insomma, perché? Ecco, è difficile non pensare che, ecco, siano frutto di qualche cosa che magari l'animale ha mangiato, a cui è stato somministrato, insomma, suonano un po' strane. No, in realtà è normale che il muscolo, man mano che la temperatura sale, ceda acqua, perché come tutti i tessuti ha dell'acqua, la cottura stessa tende un po' a restringere la fibra muscolare, quindi che un po', che di cui è fatta la fettina, per cui che un po' diminuisca, assolutamente normale, fisiologico. Rimane un po' la credenza di quando di fatto sono stati molto usati, parlo degli anni 60 e 70, anche ormoni che avevano l'obiettivo di trattenere acqua, e quindi si vedeva quell'effetto grossolano proprio di riduzione della fettina nella padella, ma adesso avviene un po', questo è normale, fa parte della fisiologia del muscolo. Dottor Speciani, io immagino che sicuramente tra qualche suo paziente, qualcuna, qualche mamma, le avrà chiesto preoccupata, ma come mai le ragazzine di oggi hanno un menarca anticipato? Non sarà colpa di quello che stanno mangiando? E di nuovo l'idea ritorna agli ormoni. Io ho la fortuna o la sfortuna di fare il medico da quasi 40 anni, 39 anni di laurea quest'anno, quindi sono passato attraverso queste epoche che descrive la dottoressa Caramelli, in cui gli ormoni c'erano e in cui sono stati identificati, ricordo alcuni casi specifici in cui contaminazioni e delle sofisticazioni effettive sono state identificate proprio grazie all'intervento sulle bambine che avevano menarca anticipato, eccetera. E quindi è un tema che c'è, devo dire, io tifo Europa oggi proprio perché c'è una legislazione che ci consente di avere delle garanzie molto precise. Io stesso personalmente, e mi piace quando passo negli Stati Uniti comunque assaggiarmi un paio di costate o di T-bone stick o qualcosa, e mi rendo conto che mi gonfiano, cioè c'è un elemento possibile. A lei sia a casa. Posso fare una domanda alla dottoressa Caramelli? C'è davvero questa bellezza dell'Europa del controllo, ad esempio, dell'utilizzo degli antibiotici a basso titolo che servivano per stimolare la crescita degli animali? Oggi questo non c'è più. Mi domando, di fatto, nel momento in cui ad esempio in una vacca da latte esiste una malattia della vacca e quindi viene trattata con antibiotici, c'è un tempo legale, questo mi manca come conoscenza, di sospensione della sua, come dire, del fatto che fornisca latte al gruppo, nello stesso gruppo in cui sta vivendo? Sì, il rispetto del tempo di sospensione è uno dei cardini su cui ci basiamo per tutelare la salute delle persone, perché i controlli vengono fatti proprio per vedere che tutti i prodotti di origine animale, quindi anche il latte, le uova, non solo la carne, non contengano residui di antibiotici se gli animali sono stati sottoposti a una cura antibiotica, che è doverosa se l'animale è malato, perché bisogna darglieli in modo anzi appropriato e tempestivo. Appropriato vuol dire che ci vuole la ricetta del veterinario, mentre tanto spesso le persone prendono antibiotici senza ricette. Ecco, in veterinaria per dare antibiotici ci deve essere una prescrizione precisa del veterinario. È vero che la zootecnia è una delle grandi accusate di contribuire al fenomeno dell'antibiotico resistenza, ma non solo, anche noi umani abbiamo abusato, c'è stata una buffata di antibiotici, per cui anche noi umani contribuiamo a diffonderli nell'ambiente e quindi a costituire la base di quella che è la resistenza agli antibiotici, perché creiamo germi sempre più resistenti. Dottoressa, l'altro cardine, sì, è appunto la ricetta, l'obbligatorietà della ricetta. L'altro è quello del rispetto dei tempi di sospensione, cioè viene dato all'animale il tempo di smaltire l'antibiotico che ha diritto di avere per benessere, e i controlli vengono fatti proprio per vedere che venga rispettato questo tempo di sospensione, di modo che noi non ne assumiamo più mangiando prodotti di origine animale. Mi aiuta a capire un valore economico. L'altro giorno in treno sul Frecciarossa c'era uno che fumava di nascosto e ho scoperto, però ho scoperto che c'è un pagamento che deve effettuare che è di 15 euro. Io personalmente, poco. Esatto, allora mi domando, quanto uno che bara in questo tipo di elemento, che tipo di punizione riceve? Sanzione riceve. No, le sanzioni sono molto molto severe. Adesso dell'ordine economico non so dirle, ma andiamo nel penale, perché si tratta di mettere a rischio la salute della persona. Bene, grazie, mi rassicura. Dottoressa Caramelli, la ringraziamo, le auguriamo una buona domenica. Grazie a voi, buona domenica a tutti. E le auguriamo anche una buona giornata e una buona prossima settimana. Assolutamente sì. Ma è strano questo del fumo. Io sono rimasto sconvolto, perché a parte che io avendo smesso di fumare ormai da 35 anni, al naso ancora, ho il naso anch'io. E lo sento da lontano da chilometri, e quindi ho chiamato subito il capotreno. Invece, ho detto sì, l'abbiamo già identificato, poi ho detto scusate, ma mi ha detto no, abbiamo purtroppo delle sanzioni ridicole invece del canda trifula, perché è tempo di prendere me. Trifula vuol dire in piemontese tartufo. Faccio una traduzione per la mia amica Roberta, che è romana e dall'altra parte del vetro, ha chiesto subito trifula, ma trifula è... Comunque, ci starebbe bene, un po' però sì, hanno dei prezzi... Va bene, dottor Speciani, abbiamo parlato di proteine animali, lei ci ha detto che ne mangiamo, non è vero che ne mangiamo troppe, rischiamo di mangiarne troppo poche. Con la dottoressa Caramelli abbiamo parlato di proteine animali, tra l'altro anche su questo aspetto le sottopongo alcune delle richieste che ci sono arrivate e anche dei dubbi che alcuni ascoltatori ci hanno scritto via mail. Ad esempio, si dice sempre che la carne rossa sia più ricca di ferro di quella bianca e del pesce. È vero o è falso? Allora, sì, un pochettino, forse piccolissime quantità, variazioni che poi dipendono anche da come è stato coltivato l'animale, da come è stato l'allevamento dell'animale fondamentalmente, però non c'è questa grande differenza, per cui direi che siamo da questo punto di vista sullo stesso livello. Voglio ricordare a tutti che siamo fatti di proteine, noi funzioniamo in virtù del fatto che le proteine dentro di noi si muovono in un certo modo, questo è uno dei motivi che ci obbliga a mangiarle nella quantità giusta e corretta. Possiamo prendere, abbiamo detto, proteine animali, quindi carne ma anche pesce. Carne, pesce, uova, formaggi che sono sempre di tipo animale. E poi un mucchio di proteine vegetali. E sono proteine non di serie A, di serie B. La proteine del pesce valgono come quelle della carne, sì, come quelle delle uova, giusto? E direi come quelle dei, sì, formaggi. Sono tutte uguali? No, sono diverse come composizione, alcuni elementi mancano. Il tema è di come bilanciarle nel modo corretto, per cui paradossalmente anche in una dieta vegetariana, ho detto vegetariana e non vegana, in una dieta vegetariana il bilanciamento corretto di formaggi piuttosto che di alcune leguminose piuttosto che di altro può portare all'apporto di tutti gli aminoacidi necessari. In una dieta invece rigorosamente vegana questo diventa molto più difficile, perché per riuscire ad avere tutti gli aminoacidi necessari bisogna crescere tantissimo di carboidrati, in realtà non lo fa mai nessuno. Allora, noi ci fermiamo perché andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade, ma il dottor Speciani adesso ci dirà anche che cosa mettere nel piatto, e quindi anche per chi ha fatto delle scelte vegetariane o vegane. Io comunque ho fame, quindi adesso cerchiamo adesso, di fare dai, in fretta, un po' dai, veloce, tra poco su, che partiamo, dai, e iniziamo a mangiare. Soundcheck, il suono della musica, di Gegè Telesforo. L'appuntamento con la prova del suono è il sabato e la domenica a partire dalle 19:15 in collegamento con il Groove Master Studio per un pieno di grande musica, la nostra migliore discografia e tanta musica dal vivo, sempre soltanto su Radio 24. La bufala in tavola. Siamo tornati veloci perché il dottor Speciani, che è seduto a capotavola della tavola della bufala in tavola, ha fame, nonostante abbia mangiato le proteine a colazione. Certo, perché sapevo che mi avresti offerto delle cose ottime. Però lei ha mangiato salmone a colazione, poi ha mangiato un altro pesce che non ci ha detto. Non ce l'ha detto l'altro pesce, no, che ha mangiato, detto. Vabbè, ci terrà così nel segreto, ma abbiamo parlato di proteine animali. Io voglio però parlare anche... Il cod è il merluzzo, quindi era un pezzo di merluzzo. Va bene, un pezzo merluzzo e salmone, ma noi vogliamo parlare anche delle proteine vegetali. Fantastico. Mi piacciono un sacco. Dai, allora parto subito col allora io adesso, intanto che preparo il sugo, lei viene qui e mi fa tutta una chiacchierata. Dai, ma la mia fame è attizzata dalle cose bellissime che vedo qua, che sono delle cose simpaticissime che avete preparato. E uno dice, scusa, me la lasciamo raffreddare, non assaggiamo niente. Mi viene voglia di fare una puccetta nel pomodoro che vedo lì, delle cose simpatiche. Quindi. Noi sa che iniziamo sempre con qualcosa di crudo, vivo e colorato. Esatto. Io qui ho dell'ottimo pane integrale. Ecco, questa è la prima cosa che dico. Cioè, noi parliamo di carne, di pesce, eccetera, con 20 grammi di proteine per 100 grammi. il pane integrale buono ne contiene 14. Cioè, se uno si porta avanti al mattino anziché mangiarsi una ridicola fetta biscottata o del pane bianco che sembra spalmato di Vinaville come idea, in realtà mangia delle cose di questo genere, già si porta in avanti. Allora parliamo delle vegetali. Intanto sfatiamo una bella bufalina sulle leguminose, perché ci sono le persone che dicono: ma io mangio le proteine perché mangio le leguminose. Ma santo cielo, le proteine delle leguminose rappresentano, quando le preparate, circa il 6% di contenuto della sostanza. E tu hai un piatto da 2 etti di lenticchie, c'è dentro 12 grammi di proteine, che sono poche rispetto ai bisogni. Mentre il pane ne ha 14 e nessuno l'ha mai considerato una proteina. Io ho un teorema, mamma, che è quello di Tex Willer, che chiamo, ricordiamo, Tex Willer, che in realtà cucinava i fagioli insieme con il pemmican, cioè una sostanza proteica praticamente con la pancetta in un certo modo. Io faccio le lenticchie con i gamberetti, ad esempio, oppure le lenticchie con le mandorle, perché se uno sbriciola le mandorle, che contengono il 31% di proteine, ecco che mi piace. Mandorle e lenticchie. Cara. La lenticchia, che ha dentro solo il 6-7% di proteine vegetali ottime, più il 31% delle mandorle, riusciamo a fare un pasto, mix, un piatto che è equilibrato. È come mangiarsi una bistecca, fondamentalmente. Allora, questa cosa qui inizia a diventare positiva e significa che dobbiamo ragionarci. Faccio solo 2 altri esempi, perché abbiamo, dal punto di vista proprio per il vegetariano che quindi non vuole mangiare né latte né uova, abbiamo tante scelte. Però la soia, ad esempio, se non OGM, se fatta bene, se è biologica soprattutto, ecco che io spesso al mattino, quando sono di fretta, mangio dei bocconcini di soia che hanno il 51% di proteine. Allora, sono come anziché mangiarmi i cereali, mangio della soia. A quel punto sono di corsa, ci metto dentro delle mandorle, un po' di latte, di bevanda vegetale. Bisogna chiamarla bevanda vegetale, non mi cada così. Non cado sulla mandorla, evito di cadere sulla mandorla. Quindi con una bevanda vegetale insieme, ed ecco che mi sono mangiato 35 grammi di proteine in una prima colazione, quindi sono andato già oltre, mi sono portato in avanti in anticipo. Io, al di là di contare le proteine negli alimenti che mangio, fare questa conta eccetera, a livello fisico io posso capire se la mia dieta mi assicura il giusto quantitativo proteico? C'è un pizzico, un esame, un cosa o no? Secondo lei si può dare un'indicazione? Sì, c'è un esame che non è una percezione immediata, ed è se stiamo costruendo muscolo o no. Spessissimo noi vediamo che le persone che iniziano a calare di peso in realtà smettono di mangiare proteine e perdono muscolo prima di tutto, perdono poi anche un po' di grasso, un po' di liquidi. Ecco, quella è un'indicazione pessima, vuol dire che uno non sta mangiando in maniera adeguata e quindi l'alimento proteico che ci costituisce non viene sufficientemente raggiunto. Senti come mangio. Senti come mangio, una nuova amica, Valentina Boccia. Ciao Valentina. Ciao Nicoletta, ciao a tutti, ecco, buona domenica. L'amica che ciascuno vorrebbe a fianco ed è amica di tanti fan, followers, che si fantastica, dice così, l'hai detto benissimo. Che la seguono, ne hai più di 1,5 milioni tra Facebook e Instagram. E sì, tu insegni e parli di dolce. Allora io vorrei, ti ho invitato perché il dottor Speciani da quando è seduto qua che ha fame, allora io gli faccio fare un pranzo al contrario, inizio col cioccolato, il cibo degli dèi, ma allora senti come mangio, chiediamo sempre al nostro esperto di darci consigli per prendere il meglio dal prodotto che portiamo a tavola. Mi taccio e seguiamo alla lettera quello che tu ci racconti. Sul cioccolato diciamo possiamo veramente dire tantissimo, perché il cioccolato seduce, unisce, coinvolge un po' tutti i sensi. Se pensiamo che addirittura il cioccolato ha conquistato i Maya, gli Aztechi, lo definivano il cibo dei dei, quindi tuttora al giorno d'oggi nostro, ai giorni nostri, continua ancora a sedurre, dolci più replicati, più amati. Ci tirano, guarda, una torta al cioccolato ci permette sempre di fare centro. Dammi, si migliora l'umore, brava, diciamo, il buon umore. Valentina, ecco, ma dacci 2 segreti. Valentina, qual è il segreto per preparare un dolce al cioccolato come li prepari tu? Innanzitutto io quello che dico affidarsi ai cinque sensi. I cinque sensi giudicano, quindi bisogna subito innanzitutto partire da un cioccolato di buona qualità. Come riconoscerlo? Ovviamente affidandosi proprio ai cinque sensi, alla vista. Il cioccolato deve essere lucido, mai opaco, l'indice di opacità in genere è un po' indice di cattiva lavorazione o di cattiva conservazione, lo sfatto. Si deve sentire il profumo avvolgente, è la prima cosa, prendere il cioccolato e annusarlo, sentirne il profumo, il cioccolato ha un profumo, ecco, il tatto, il cioccolato deve essere freddo, deve ammorbidissimo nel calore umano, ecco, questi in generale sono un po' i trucchetti che io do ai miei lettori per riconoscere un buon cioccolato, per prima cosa proprio vederlo. Vederlo, guardate il cioccolato, ma magnatelo pure e mangiatelo anche perché il dottor Speciani ce lo dà il cioccolato, vero? Ma certo, ho usato devo dire, Valentina, dei termini che sono da dopo le 8:30 di sera, perché ci sono i bambini che ascoltano, cioè la sensualità nel raccontare il cioccolato fa parte effettivamente. Valentina, sei veramente straordinaria, ma straordinarie sono anche le ricette che hai raccolto nel tuo libro Voglia di Dolce, dottor Speciani, dolce. Noi lo confermiamo. Ecco, e ci sono delle ricette. Ce la regali per gli ascoltatori di La Bufala in Tavola una ricettina proprio tua che noi postiamo naturalmente sulle nostre pagine? Certo. Certo, come no. Io adoro, ecco, proprio partendo dal cioccolato, c'è una torta al cioccolato dove il cioccolato è proprio il protagonista assoluto, c'è pochissima farina, anzi nemmeno, c'è forse fecola e si sente proprio tutto il gusto del cioccolato, c'è un cuore fondente in bocca. Mamma mia, che bontà! Quello diciamo è comfort food per eccellenza, io lo definisco così, basta preparare quella torta, un divano, un film e si sta, come dice, si ritrova un po', si sta bene. Sì. Ma guarda, ma poi con questo, guarda Valentina, ti adoro perché questo lieve accento napoletano, guarda, mi arriva al cuore, e anche il dottor Speciani devo dire, perché anche gli aggettivi che hai usato per descrivere il modo in cui hai descritto il cioccolato, visto che si è alluzzato. Allora, dottor Speciani, grazie. Inviteremo Valentina Boccia anche qua in studio con noi la prima volta che passa da Milano. Intanto la seguiremo naturalmente nel suo blog. C'è il libro, ma intanto anche sulle pagine della Bufala in Tavola trovate la ricetta che Valentina ha regalato proprio a noi della domenica. Valentina, un abbraccio, grazie, buon cioccolato. Un abbraccio, buona domenica a tutti. Dottor Speciani, noi andiamo? Abbiamo iniziato dal cioccolato. Dobbiamo ritornare indietro. Allora, se adesso lo teniamo lì, intanto un pezzettino l'abbiamo assaggiato, sensuale, buono, caldo, lucido, adesso potrei andare avanti, ma è meglio di no. Andiamo a mangiare. Andiamo a fare, iniziare, dai. Buona domenica a tutti.